Immaginavo me stesso, nessuna immagine di me. Perché dovevo dunque vedermi in quel corpo lì, come in un'immagine di me necessaria? Mi stava lì davanti, quasi inesistente. Quell'immagine, io potevo benissimo non conoscermi così. E se non mi fossi mai veduto in uno specchio, per esempio, non avrei forse per questo seguitato ad avere dentro quella testa lì sconosciuta i miei stessi pensieri. Ma sì, e tant'altro. Avevano da vedere quei capelli di quel colore, i quali avrebbero potuto non esserci, o essere bianchi, neri o biondi. E con quegli occhi, il verdastro, che avrebbero potuto anche essere neri o azzurri. E con quel naso che avrebbe potuto essere di camusa. Potevo benissimo sentire anche una profonda antipatia per quel corpo lì. La sentivo. E la sentivo. E la sentivo.